Radio 24 Reportage. L'Italia e il Mediterraneo di Gianfranco Fabi. Le musiche che fanno da contorno a questo reportage sono canti tradizionali della Giordania, proprio perché la capitale giordana, Amman, ha ospitato nei giorni scorsi un confronto organizzato da Cerver Group tra politici, finanzieri ed esperti sulle realtà e le prospettive dei rapporti tra Europa e Mediterraneo. La politica mediterranea è uno dei punti forti della politica estera italiana. Basta guardare una carta geografica: da una parte i grandi paesi europei come la Spagna e la stessa Francia, dall'altra la regione balcanica in profonda evoluzione, a sud i paesi del Nord Africa con le loro ricchezze naturali come il petrolio e il gas e le loro particolarità politiche, a sud-est il Medio Oriente con l'inestricabile conflitto israelo-palestinese e poi ancora il Libano e la Turchia. E in prospettiva, i temi strettamente politici si intrecciano fortemente con i temi sociali ed economici. Per i rischi sullo scenario globale, ma anche per le tensioni locali e per la necessità di affrontare in un clima di collaborazione il problema dell'immigrazione. Negli ultimi anni, l'Europa ha prima, nel 1995, avviato un progetto di partenariato euro-mediterraneo e ha poi avviato quest'anno quella che è stata chiamata l'Unione per il Mediterraneo, che riunisce 43 paesi, tutti 27 membri dell'Unione Europea, più il Principato di Monaco, più gli 11 paesi del Medio Oriente e Nord Africa, Israele e autorità palestinese compresi, e 4 paesi dell'area balcanica. Un progetto ambizioso su cui si è fatto il punto al convegno di Amman. Sentiamo i protagonisti. Paolo Gnes è presidente di CERVED. Perché questo interesse allo scenario geopolitico? È un contributo che CERVED, che appunto è azienda leader sull'analisi dei problemi delle imprese, quindi sull'azione del rischio di credito, è un contributo quindi che CERVED ritiene di dover dare per migliorare la conoscenza del contesto in cui la nostra impresa si muove. Quindi l'impresa si muove oggi su un contesto globale e quindi non c'è secondo noi una sufficiente analisi oggettiva, serena e puntuale, ma esposta in termini facilmente comprensibili su quelli che sono i grandi temi dell'economia globale. Da qui la nostra idea di Global Competition, che appunto illustra le grandi tematiche in termini rigorosi ma allo stesso tempo facilmente comprensibili, e in questo contesto il convegno che annualmente facciamo sui grandi temi dell'Unione Europea, sia nel diverso modo di vederne il futuro tra i suoi membri, sia nei rapporti di vicinato. I rapporti euro-mediterranei sono un tema di grandissima importanza. Questa importanza è stata avvertita da molto tempo, sono almeno 30 anni che questo obiettivo viene perseguito con alterne vicende. Ultimamente intendo l'anno scorso, su iniziativa di Sarkozy è stato rilanciato il progetto e si è ritenuto di aggiungere al partenariato euro-mediterraneo questa unione per il Mediterraneo su cui appunto abbiamo discusso, sulle prospettive che ha e sui problemi che si pongono. Allora qui devo dire che il primo problema è la pregiudiziale politica, se così possiamo dire, che sta bloccando la partenza di questo progetto, che potrebbe giocare un ruolo estremamente importante non solo sul versante economico, ma anche, vorrei dire, soprattutto su quello della sicurezza. La grande idea che abbiamo lanciato è quella di inserire quest'area, cioè l'area del Mediterraneo, nel processo di riposizionamento strategico che è in corso nell'industria europea. Cioè far sì che questo processo non si svolga soltanto sul mare magnum dell'economia globale, ma possa trovare una concreta possibilità di realizzazione all'interno di un'area che dovrebbe continuare a gravitare nell'orbita europea, cioè quindi sotto nostro controllo in qualche modo. E quindi questo è il grande obiettivo: vedere se riusciamo a inserire stabilmente questi rapporti dentro il processo di riposizionamento strategico che stiamo comunque realizzando. L'ambasciatore Antonio Badini è stato responsabile dei rapporti tra Italia, Europa e Mediterraneo. La situazione oggi è molto mutata rispetto ad alcuni anni fa, quando erano i governi ad assumere l'iniziativa di un avvicinamento istituzionale che potesse portare ad uno sviluppo economico più condiviso, stabilità sociale e dunque stabilità politica. Il mercato non ha risposto a quel tempo, ma oggi il mercato sta andando avanti rispetto agli orientamenti di governo. Gli investimenti crescono, c'è una grossa fiducia nelle economie, nelle possibilità di sviluppo di queste economie che vanno a tassi sul 5-6% in media, ma alcuni paesi vanno sull'8%. Questi paesi stanno dotando di accordi commerciali per regolare lo scambio tra di loro. Guai a fidarci troppo dell'economia. L'economia sta finalmente reintroducendo quei valori di condivisione nello sviluppo che erano nelle intenzioni dei governi. Il mercato oggi risponde con ritardo, ha sovravanzato la politica, ma guai se la politica non riprende le redini. Giorgio Gomel, capo del Servizio Studi e Relazioni Internazionali della Banca d'Italia, ha svolto al Convegno d'Amman una relazione sullo stato delle economie dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, proprio in relazione ai rapporti economici con l'Europa. Ho fatto una relazione, diciamo, piena di chiari e scuri, cioè i chiari sono il fatto che queste economie sono andate crescendo nel decennio scorso, diciamo prima della crisi del 2007-2008, a tassi cospicui, anche il reddito pro capite dell'economia del Mediterraneo, escludendo Israele, che è un'economia, insomma, molto, molto avanzata, ma le altre sono comunque cresciute dell'ordine del 5% come reddito pro capite, che le pone, diciamo, in una condizione magari lievemente inferiore ad altre economie ad analogo stato di sviluppo tra le economie emergenti del mondo, ma pur sempre rispetto ai decenni precedenti è un dinamismo che è importante riconoscere. Queste economie adesso subiscono ovviamente la ramificazione di una crisi mondiale, ne sono state isolate per certi versi per il loro grado di isolamento, la arretratezza dei sistemi finanziari e anche la minore esposizione ai flussi di commercio e di investimento diretto con le economie mature, ma comunque ne subiranno le conseguenze tramite la riduzione delle rimesse immigrati, del turismo e anche del commercio. Quindi è un crinale, diciamo, molto, molto delicato al momento. La cosa positiva è che in particolare dagli inizi di questo secolo, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, c'è un'azione di riforma voluta dai governi che va nel senso di privatizzare, ridurre il ruolo dello Stato nell'economia e cercare di aprire l'economia al resto del mondo, e questo certamente è un altro chiaro. L'oscuro che resta è il fatto che sono economie fra di loro ancora molto disintegrate, cioè nel senso che i rapporti di interscambio, commercio, finanza, investimenti diretti fra le economie del mondo arabo, diciamo, e della sponda sud del Mediterraneo più specificamente, sono molto modeste. Domenico Giorgi, coordinatore dell'Unione per il Mediterraneo. Lo stato attuale dell'Unione Mediterraneo, nata a Parigi al vertice del 2008, è di ricorrenti difficoltà sul terreno politico causate dalla crisi di Gaza e dalle conseguenti difficoltà politiche. Ciò nonostante, essendo l'obiettivo dell'Unione per il Mediterraneo quello di promuovere grandi progetti di collaborazione economica che servano a riavvicinare le due sponde, si può dire che il processo va avanti tra mille difficoltà, ma va avanti e forse anche grazie all'intervento, alla partecipazione del mondo privato. Questo potrebbe facilitare la realizzazione di iniziative che a noi sembrano strategiche per il futuro dell'Italia e dell'Europa nel nuovo contesto globale. C'è tuttora un grave conflitto. L'Italia e l'Europa hanno sempre giocato però la carta del contribuire alla ricerca della pace e della stabilità, e mai nel senso contrario. Il mondo arabo è un mondo complesso e multiforme, un mondo tuttavia che ha grandi potenzialità. Soprattutto i paesi con una classe dirigente aperta e moderata come la Giordania possono offrire alle imprese italiane nuove e significative possibilità di sviluppo. E in questa prospettiva, ogni passo per tenere aperto e costruttivo il dialogo non può che essere valutato positivamente.